D'autunno come il lì, siro blio. D'autunno come il lì, se comando. Adesso come il lì, così. Fa così. Come il lì, così. Così. Così. D'autunno come linfa, è pesante la mia testa nella carne che vuole ti respinga, divide la materia che varca il mio respiro, così interrotto da un brivido divino. La mente torbida, infantile, malinconica, è così fragile questa meccanica. Io non riesco a darmi pace, forte e avido, la mia attitudine mi scioglie come acido. E io ti ho persa come nel firmamento, come un soffio, e l'abitudine non stabilisce un torto. Come visioni a lungo raggio sono gelidi, i miei petali avvizziti, le dediche e i silenzi rimangono allibiti, e le tue lacrime che rigano i vestiti. È una storia consumata, cicatrici sull'orlo della fine, un sibilo pendici. Io sull'orlo della fine, Dio, ti vorrei ancora qui con me. Sono sotto casa tua senza un perché. Io sull'orlo della fine, Dio, ho sbagliato mille volte, so che non si torna indietro. E non brillano le gemme nei tuoi occhi, restano foglie secche, scarabocchi, come un miraggio dissolto agli ultimi rintocchi. Siamo di legno come piccoli pinocchi, e sono schegge nel mio petto, è l'illusione che mi solca come un partito perso. La tua rugiada terre aride battufoli, e le tue labbra come fiumi irragionevoli, così maligna l'incertezza e l'implacabile tempesta dell'ultima carezza. Io sono in orbita appassito, è un'altra beffa, e il mio sole mi ha tradito. Come un destino figurato, la ferita prende forma, e come un baco da seta diventa una farfalla, si trasforma. Il tuo addio ha lasciato la sua orma. Io sull'orlo della fine, Dio, ti vorrei ancora qui con me. Sono sotto casa tua senza un perché. Io sull'orlo della fine, Dio, ho sbagliato mille volte, so che non si torna indietro. Io sull'orlo della fine, Dio, ti vorrei ancora qui con me. Sono sotto casa tua senza un perché. Io sull'orlo della fine, Dio, ho sbagliato mille volte, so che non si torna indietro. Alla fine rimane solo la paura di perdersi, di smascherarsi. Ci si crea una realtà parallela per essere più sereni, braccati dalla voce del passato che vuole zittirci, influendo su quella presente. Ma alla fine saranno solo corde, solo arpe degli angeli. Sangue sulla carta, arte povera. Siro Blio, lo street album. Non può piovere per sempre.